9 in punto, la versione di Oscar. Buon lunedì 4 gennaio 2010, buon inizio di settimana. E la settimana ho deciso di iniziarla con un tema un po' tosto, per così dire. La cronaca politica propone anche alla ripresa dell'anno, insomma, non troppo rassicuranti toni di scontro, ma al di là di questo poi ci sono i problemi concreti del paese reale. E tra questi problemi concreti ho deciso di occuparci oggi di quelli che riguardano gli ultimi, per così dire, i poveri, quelli che non hanno un tetto sulla testa, si sono visti privati del reddito o per le congiunture economiche della crisi o perché magari non sono mai stati ancora integrati nella nostra società. E mi ha molto colpito, proprio nei giorni prima della festa, una dichiarazione pubblica che veniva da un uomo di punta della Chiesa italiana, dall'arcivescovo di Napoli, da Sua Eminenza il cardinale Crescenzio Sepe, che per così dire ci lacera un velo di ipocrisia e ci invita a riflettere sul fatto che ancora oggi a Napoli, ma non solo a Napoli, esistono dei cosiddetti niños de ruas, cioè quelli che siamo abituati a considerare i bambini per strada delle favelas dei paesi meno sviluppati, e ci sono ancora in Italia. E proprio a loro il cardinale di Napoli ha deciso di dedicare una iniziativa che è una delle tante iniziative di cui parleremo oggi, perché abbiamo deciso di occuparci in questa puntata soprattutto di un punto, di come e perché la Chiesa, oltre a tanto volontariato anche laico, ma innanzitutto la Chiesa in questo 2009 alle nostre spalle di crisi abbia deciso di intraprendere molte iniziative proprio a sostegno di chi ha meno e dei poveri. E allora la domanda che faccio a voi ascoltatori, prima di presentare gli ospiti con cui approfondiremo i diversi aspetti di questi interventi che hanno riguardato e che devono riguardare gli ultimi della nostra società, di cui colpevolmente tendiamo a dimenticarci, la domanda che faccio a voi da casa, chiamandoci sul numero verde 800 24 00 24, è di dirci innanzitutto la vostra opinione sulle esperienze e iniziative che avete visto nelle città in cui vivete, ma soprattutto la vostra opinione sul perché, come mai, le politiche pubbliche su questo siano ancora così inadeguate, insoddisfacenti. E lo vediamo intorno a noi, che il problema degli ultimi e dei poveri è un problema che rischia, anzi con certezza non ha ancora risposte adeguate. Ecco, innanzitutto cominciamo da Sua Eminenza Cardinale Sepe, che ha accettato per alcuni minuti almeno di stare con noi, e noi lo ringraziamo molto di questo. Buongiorno Eminenza. Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Ecco, ci spiega questa iniziativa dell'adottare un bambino da strada? Io so che insomma all'inizio bisogna anche rompere una convenzione e credere che faccia male alle orecchie di chi sta a casa, anche dei napoletani, l'idea che si debba dare ancora l'idea di una città in cui c'è questo problema, non c'è solo a Napoli, però in che cosa consiste l'iniziativa? Ma si tratta, noi l'abbiamo intitolata Aiutami a crescere, cioè è un'iniziativa che vuole aiutare l'infanzia poi è multietnica, perché tutti i bambini, questa infanzia povera di Napoli, perché abbiamo la constatazione che in realtà molte famiglie vivono in condizioni di particolare indigenza, aggravate poi naturalmente dalla crisi economica un po' generale, e questa condizione fa sì che per esempio tanti bambini non vengono mandati a scuola perché le famiglie non hanno neppure i minimi mezzi finanziari per acquistare un grembiulino o i quaderni. E allora si è pensato una forma di adozione con un contributo annuo minimo di 30 euro al mese da parte di quanti vogliono sottoscrivere un'adozione, in modo da permettere l'acquisto e quindi l'assegnazione di quanto è necessario per la frequenza scolastica, ma nello stesso tempo però consentire anche, abbiamo pensato, alla creazione di una specie di banco alimentare per l'infanzia, in modo che le famiglie che ci sono segnalate dalla Caritas, dalle parrocchie, dai movimenti, eccetera, possono ricevere dei prodotti alimentari specifici proprio per l'infanzia. Così comprare del latte, comprare una pappa o comprare dei pannolini. Ecco, allora tutto questo è perché di fronte al fatto di un fenomeno come quello della povertà che continua ad allargarsi sempre di più, no? E dove tante volte noi constatiamo anche si tratta di una povertà silenziosa, perché non fa molto chiasso, ma di fatto succede che i primi a soffrirne sono proprio i bambini. Sono proprio i bambini perché i tagli vengono fatti, purtroppo, questi poveri ragazzini che appunto si sentono poi privati del necessario per sopravvivere. Allora, attraverso questa asta che abbiamo fatto con i regali che ci ha dato il Santo Padre, il Presidente della Repubblica e tanti altri, attraverso questo concerto che ci ha offerto Massimo Ranieri e soprattutto attraverso queste adozioni, noi pensiamo di poter venire incontro a queste necessità dei nostri bambini e sappiamo che non solo poi i nostri, che normalmente quello che noi riceviamo poi dopo lo mandiamo anche all'estero, come abbiamo fatto anche gli anni scorsi, come abbiamo fatto per i bambini malati di AIDS della Thailandia, oppure per i bambini dell'India. Insomma, cerchiamo di dare una risposta di carità, di solidarietà che è proprio della Chiesa a queste situazioni che sono realmente gravi. Eminenza, le arcidiocesi nell'anno alle nostre spalle poi ha anche creato e ha potenziato un'iniziativa denominata la Banca dei Poveri. Lei ha donato anche un anno intero di propria retribuzione a questa iniziativa. C'è un fondo, il fondo SPES, sì, che eroga in curia prestiti fino a 20.000 euro a tasso zero. Certo, la Chiesa non è che possa fare con le risorse che ha a disposizione chissà che cosa, può funziona molto come promotrice di iniziativa per chiedere a noi tutti di dare, di erogare, di mettere mano al portafoglio, ma nella realtà, nell'evoluzione che lei ha visto dello sviluppo italiano in questi anni a nostra spalla, in questi decenni, non le chiedo giudizi politici ovviamente, ma qual è il punto per il quale a suo giudizio bisogna ancora ricorrere, come sempre bisognerà fare, ma bisogna ancora ricorrere per situazioni di emergenza alla generosità, all'impegno straordinario di chi capisce quanto ampia sia la sofferenza economica e morale ancora nella nostra società, piuttosto che invece dall'inadeguatezza delle risposte pubbliche? Cioè, come mai tendiamo a non vedere queste cose, a non risolverle con gli strumenti delle politiche pubbliche, nella sua esperienza, rispetto all'Italia che ha visto decenni fa, insomma, e che era più ovvio che forse avesse delle priorità, eppure l'impressione era che all'epoca ci fosse più solidarietà di quanto ci sia oggi? Sì, io credo che forse non si è prevista una crisi, ma in ogni caso, dalla mia esperienza, vedo che manca una progettualità di politiche sociali che vadano nel profondo, a incominciare dalla formazione, dalla istruzione, a incominciare a creare quelle condizioni soprattutto perché sono poi il futuro, i bambini e i giovani, delle politiche che sappiano rispondere un po' alle esigenze, perché poi diventa come una catena, ecco, non si riesce a creare le condizioni ottimali per una giusta politica di soddisfazione per bambini e giovani, e quindi poi si creano tutta una situazione di emergenza alla quale poi difficilmente si riesce a far fronte. Noi stiamo battendo soprattutto su questo, cioè cercare non solo di dare una risposta all'emergenza che c'è, ma cercare di andare in fondo, cercare di vedere il problema a monte. E a monte è proprio questo, è cercare di creare quelle condizioni, soprattutto familiari, perché poi il grosso problema, il vero problema centrale diventa anche una politica familiare. Una politica familiare che dovrebbe sempre andare in accordo con una programmazione di politica sociale. Allora in questa maniera eviteremo anche quelle conseguenze di cui oggi soffriamo fortemente. Eminenza, nella sua esperienza, la Chiesa nel 2009, con questa azione che ha intrapreso in Italia, insomma la pastorale sociale si è dovuta dare compiti straordinari, lo vedremo anche in altre grandi diocesi, in altre grandi città italiane, non voglio dire che abbia recuperato punti, lo fa perché è un dovere da sempre l'attenzione verso i poveri e verso chi ha meno, ma non c'è anche la riscoperta e probabilmente anche il riavvicinamento, secondo lei, di qualche fedele un po' intiepidito e di qualcuno che ha molti dubbi o perplessità sul ruolo che viene attribuito polemicamente alla Chiesa in Italia, di fronte al fatto che poi la Chiesa riscopre queste cose e mette a nudo con la sua azione concreta, con l'esempio anche delle gerarchie, i punti scoperti della nostra politica pubblica? Non crede che questo in qualche misura contribuisca anche con l'esempio dall'alto, a cominciare da Sua Santità, dal Papa, a riscaldare gli animi della gente e forse anche a riavvicinarli un po' al valore profondo di che cosa significa la condivisione cristiana? Beh, guardi, fa parte della natura della Chiesa quella di tenere gli occhi aperti di fronte alle innumerevoli sofferenze. È la storia della Chiesa di 2000 anni a oggi e continuerà ad essere così, quella di una Chiesa che si sa mettere in ginocchio, per aiutare il povero samaritano che è ferito e soffre ai bordi della strada. Se pensiamo che oggi nella Chiesa universale esistono decine e migliaia di ospedali, di scuole, si capisce quale è anche la natura di un'azione della Chiesa. Secondo punto, la Chiesa, le nostre chiese, le nostre parrocchie stanno a continuo contatto con la realtà. Noi quando pensiamo, agiamo, non lo facciamo a tavolino, ma lo facciamo perché ogni giorno tocchiamo con mano le ferite della nostra gente. Noi quando si va dentro, quando ci si incarna nella realtà, sentiamo le grida di sofferenze che ci vengono. E terzo, io credo che, come appunto la storia ci dimostra, la carità, quando è fatta con sincerità, con apertura d'animo, quando è fatta come espressione di quell'insegnamento evangelico, allora diventa anche come un seme di riscoperta della propria identità cristiana. Cioè i fedeli, quando vedono le opere concrete, reali, fatte con amore, allora è chiaro che riscoprono anche un cristianesimo autentico e vero. Allora tutto questo, in una situazione come quella di oggi, di crisi mondiale, di crisi regionali, noi non possiamo non incarnare il Vangelo in questa realtà così drammatica. Io ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Seppe per il tempo che ci ha dato. Spostiamoci, ecco, da Napoli adesso, che forse siamo più abituati nel bene e nel male ad associare sempre anche a fenomeni di crisi, di emergenza, e tuttavia vi ricordo che ricordatevi di cercare gli estremi della Fondazione In Nome della Vita Onlus per aderire a questo programma di adozioni di vicinanza, come le ha chiamate il Cardinale di Napoli, per i ragazzi di strada napoletani. Bastano 30 euro al mese per sostenere qualche centinaio almeno di bambini di strada napoletani. Ma dicevo, spostiamoci verso Milano, quindi la città nella quale probabilmente è più difficile immaginare, accettare anche l'idea che ci siano bambini di strada, poveri, cioè. Eppure anche a Milano l'iniziativa della Curia e dell'Arcidiocesi quest'anno ha toccato con mano, ha dimostrato agli occhi di chi sa vedere, di chi sa fermarsi per scrutare la realtà circostanza, che la realtà dei poveri, delle famiglie disagiate, di chi ha bisogno di sostegno, di chi è fuori dal circuito dell'economia normale, sia pure al più basso livello di consumi, è un fenomeno che nel 2009 si è molto accresciuto. Io non voglio fare le solite polemiche su quanti sono i poveri in Italia, perché ricordo a tutti coloro che sono in ascolto che nemmeno su questo noi riusciamo oramai nel nostro paese, come in quasi ogni altro fenomeno, ad avere un linguaggio quantitativo che descriva in maniera condivisa la realtà, perché Un conto è se usiamo la linea di povertà elaborata dalla Commissione Onofre alcuni anni fa, altro conto è se usiamo invece l'indicazione comunitaria che viene rispetto alla distanza dalla linea media del reddito disponibile. Quindi ciascuno nel nostro paese fa numeri diversi e per una volta ho voluto evitare le polemiche su quanti sono i milioni di famiglie italiane considerate in difficoltà ad arrivare alla famosa quarta settimana, ricordate tutti le polemiche che ci sono state nel nostro paese. Il punto è che ci sono e ho preferito per una volta, invece che dividerci come sciocchi nel dire se sono X o Y milioni, identificare concretamente che cosa fuori dalle politiche pubbliche che non riescono a risolvere il problema si faccia. E allora vediamo con Luciano Gualzetti, che è con noi e che è il segretario del comitato di gestione del Fondo Famiglia Lavoro e vice direttore della Caritas Ambrosiana, di fare un punto su qual è stato il complesso delle iniziative messe in campo qui dell'arcidiocesi milanese, che esperienza è venuta fuori, che anche dimensione del fenomeno e quali sono state le risposte che in un contesto come quello milanese sono venute a quello che la Chiesa anche in questo caso può fare, certo mobilitando un po' di risorse, tutte quelle che ha, ma soprattutto chiedendo a noi tutti poi di dare una risposta. Buongiorno, buongiorno Gualzetti. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, l'esperienza di quest'anno a Milano com'è stata innanzitutto? Un fenomeno che ha iniziato poi a diventare imprevisto nelle sue dimensioni oppure qualche cosa a cui in realtà eravate quasi abituati? Uno sviluppo di una situazione che tenevate già sotto controllo con le vostre iniziative? Ma certamente come Caritas Ambrosiana gli ultimi mesi del 2008 registravano delle forti tendenze a incontrare, non so, i centri di ascolto del territorio disseminati sul territorio incontravano sempre di più nuove situazioni, soprattutto famiglie italiane che si impoverivano, che iniziavano a dare i primi segnali di scarsità di reddito, di forte indebitamento. Questo lo registravamo grazie all'osservatorio che abbiamo a livello diocesano, con un incremento di richieste di aiuti economici, di aiuti materiali, soprattutto appunto delle famiglie italiane. A dicembre 2008 il Cardinale, ascoltando un po' come sa fare lui il territorio della vasta diocesi di Milano, interpretò un po' questi segnali con grande preoccupazione e avviò, come tutti sappiamo, la notte di Natale del 2008 questo Fondo Famiglia e Lavoro, che ha cercato di dare una prima risposta tempestiva ai segnali di crisi, cioè di famiglie che iniziavano a perdere il lavoro e entrare in crisi. Questo fondo si è avviato poi in fretta nei primi mesi del 2009 e in questi 8 mesi di attività ha intercettato più di 4.600 famiglie che si sono rivolte al Cardinale per chiedere un aiuto. Teniamo presente che queste prime situazioni che si sono affacciate al Fondo Famiglia e Lavoro sono situazioni di operai che avevano già perso il lavoro ma che appunto non avevano gli ammortizzatori sociali, quindi coloro che erano a tempo determinato piuttosto che i precari, no? le famose Coco Pro, e che quindi non avevano immediatamente una risposta dal pubblico impiego. Adesso stiamo avvertendo l'affacciarsi di situazioni di famiglie che, pur avendo avuto la cassa integrazione stessa non basta e quindi chiedono comunque un aiuto al fondo del Cardinale. E in queste 4.600 famiglie che si sono rivolte al Fondo Famiglia Lavoro, che cosa è stato concretamente possibile fare in media per loro? Allora, innanzitutto il Cardinale ha chiesto una grossa attenzione alle famiglie, cercando di considerare il fondo come integrativo ad altre forme di aiuto che le parrocchie innanzitutto potevano mettere in campo, ma che magari erano state messe in campo anche dalle politiche pubbliche, ricordo i bonus della Regione Lombardia piuttosto che la social card che soprattutto all'inizio dava un minimo di risposta. Quindi gli operatori delle Caritas e delle ACLI che si erano messi a disposizione per far funzionare il fondo erano impegnati prima di tutto a trovare le risposte sul territorio e le risposte sia private che pubbliche che già erano disponibili. Laddove queste non bastavano, il fondo ha erogato sui 6 milioni e mezzo che ad oggi ha Natale del 2009 è riuscito a raccogliere, ha già erogato più di 5 milioni, 5 milioni e 53 mila, a 2.333 famiglie che hanno così avevano i requisiti per accedere al fondo, per una media di 2.000 euro a testa, date con assegni mensili di 500-800 euro al mese, consegnati proprio dai parroci che così conoscevano le persone in maniera diretta e potevano controllare l'efficacia dell'intervento. Quindi un monitoraggio diretto, formato sulla conoscenza diretta delle famiglie. Le cifre a molti che non hanno esperienza dell'ammontare degli ammortizzatori sociali potranno sembrare limitate, 500-800 euro al mese. Vi invito a credere che non è affatto così, perché gli integrazioni straordinarie del reddito, quando si entra in cassa integrazione, per un operaio sono esattamente su questo ammontare, a volte 800-900 euro, quindi significa raddoppiare o aumentare del 50% quello che può non bastare per una famiglia magari di 2-3 figli, e questa è la differenza tra una sofferenza e un disagio fortissimi e un disagio contenuto. Ora la pubblicità, poi continuiamo con altri ospiti e le vostre telefonate. Ci siamo occupati in questa prima metà della trasmissione di quello che la Chiesa italiana ha deciso di fare nel 2009 per sopperire a quello che le politiche pubbliche non riuscivano direttamente a risolvere, cioè i problemi di una povertà e di un disagio sociale che si estendeva, sia perché c'erano nuove vittime, nuove colpiti dalla crisi per via dei diversi settori industriali che venivano di volta in volta interessati a cassa integrazione ordinaria e straordinaria, e c'erano milioni di italiani che non erano coperti dal regime degli ammortizzatori sociali. Poi il governo ha deciso di estenderli prolungandoli di volta in volta, ma ricordo che il 2009 si chiude con una produzione industriale che è arretrata di 100 trimestri, cioè ci ha riportato alla produzione industriale di 25 anni fa rispetto ai soli 12 trimestri persi dalla Francia, ai 13 trimestri persi dalla Germania, e a questo poi si sono aggiunti tutti i problemi preesistenti di mancata integrazione nella nostra società, di alcuni milioni di italiani che vivono comunque all'estrema periferia del meccanismo ordinario dei consumi, con redditi disponibili realizzati in maniera, diciamo così, non organica e fuori da un circuito minimo di dignità, di sopravvivenza quotidiana. E ci sono poi gli immigrati non integrati, insomma c'è un settore che nelle politiche pubbliche italiane stentano a mettere a fuoco, e al di là della commisurazione dei giusti mezzi per risolvere questi problemi rispetto a chi li deve finanziare, che è un problema serio che noi contribuenti poi giustamente poniamo, quello che è sicuro è che il 2009 ancora una volta ci ha messo di fronte alla realtà di iniziative private, iniziative che dal mondo ecclesiale come dal mondo del volontariato laico hanno deciso di farsi carico di questi problemi più di quanto forse potesse fare o volesse fare la politica. Alcune testimonianze vostre, iniziamo con Antonella da Brescia, prego Antonella. Buongiorno Oscar, e complimenti ancora per la trasmissione che è sempre molto interessante. Allora, io volevo portare così una testimonianza molto semplice. Anni fa, come turista, sono andata a Napoli a fare appunto una vacanza ed ero ospite di amici, e visitando questa bellissima città io mi accorsi del livello proprio di povertà evidente, soprattutto tanti bambini, peraltro napoletani, non erano stranieri, che chiedevano elemosina in ogni chiesa, in ogni palazzo, museo, eccetera, davanti all'ingresso di questi bellissimi monumenti. E questa cosa già mi aveva colpito, chiedendo a questi miei amici appunto napoletani di questo fenomeno appunto così evidente, liquidarono il problema con un atteggiamento molto superficiale, secondo me, che mi aveva colpito. Cioè, sono i bambini dell'altra Napoli. Ecco, questo mi aveva proprio veramente un po' indignato, perché io proprio chiesi a questa mia amica: ma le associazioni, le parrocchie, cioè, non fanno nulla per questa situazione? Ma no, cioè, l'avevano proprio spiegato come una questione proprio molto legata al destino, cioè bambini che già appartenevano a famiglie povere che nulla avevano e che quindi non avrebbero mai avuto nulla. Grazie Antonella. Insomma, esiste ancora la Napoli del Vomero rispetto ai quartieri spagnoli o a Secondigliano? Esiste ancora una realtà così priva di osmosi, separata? Forse sì, E attenzione però a non cadere anche nel rischio della vecchia mitologia, cioè Napoli non è nemmeno quella naturalmente dei libri di Ermanno Rea, è profondamente cambiata, ma certo abbiamo iniziato appunto col cardinale oggi di Napoli apposta per riporre il problema. Laura dalla provincia di Modena, prego Laura. Sì, buongiorno, anch'io volevo portare una testimonianza fortunatamente positiva. Io chiamo da San Felice sul Panaro, quindi dalla bassa modenese notoriamente molto ricca, e faccio parte di un'associazione che si chiama Il Porto, che è stata creata 20 anni fa da un sacerdote, Don Giorgio Govoni. Questa associazione inizialmente aiutava soltanto degli extracomunitari così incapaci di integrarsi o comunque con delle difficoltà momentanee. Mentre quest'anno vi siete occupati anche di italiani? Essenzialmente di italiani che non hanno più una casa, e quindi il porto nasce proprio come un porto, cioè con l'intenzione di fornire una casa a chi non ce l'ha, un tetto, per non esageriamo, una casa, un tetto e un letto. E essenzialmente adesso si tratta di italiani, di famiglie intere che dormono in macchina, che bussano dicendo non sappiamo dove andare. Seguivamo 30 gruppi, ne seguiamo 60 o 70, sono praticamente raddoppiati durante il 2008-2009. Grazie a Laura da Modena, anche qui un'iniziativa di volontariato promossa sì da un sacerdote ma con laici che poi vi operano dentro. La realtà che io conosco poi del volontariato sociale è una realtà in cui la polemica che risuona nella politica contro la Chiesa, a favore della Chiesa, è una polemica che si stempera di fronte al fatto che poi ci sono milioni di italiani. Io ricordo sempre che sono circa 6 milioni di italiani impegnati nel volontariato, che si tirano sulle maniche di fronte ai problemi concreti e lasciano poi la polemica a chi la vuole fare, ecco. E mi sembrava uno spirito un po' preferibile, a dire la verità. Ancora Maria da Napoli, prego Maria. Pronto, buongiorno. Allora, gentilmente, senza nessuna vena di polemica naturalmente, soltanto per ricordare che la Napoli è una città molto variegata anche per quello che riguarda le iniziative. Alcune, come quelle del Cardinale, naturalmente encomiabili, hanno grande spazio e l'abbiamo visto anche pochi minuti fa da lei. Le altre, quelle un po' più silenziose, forse più efficaci, sono nel silenzio più totale. Volevo soltanto ricordare che un piccolo religioso, padre Zanotelli, da anni vive a Napoli, dopo aver lasciato le missioni nelle quali ha lavorato per quasi 40 anni, scegliendo forse il quartiere Sanità, che è uno dei più degradati, ma non perché i bambini chiedono l'elemosina, ma perché probabilmente adesso non hanno più bisogno di chiedere l'elemosina, nel senso che la droga adesso riesce a sopperire alle necessità, forse anche quelle economiche, delle famiglie disagiate. E allora questo piccolo prete vive in questo quartiere, in una piccola casa tirata fuori dal campanile della chiesa, e lì fa il missionario. Grazie a Maria, per carità, non c'è alcuna polemica né da parte di Maria né da parte nostra. Abbiamo cominciato con il cardinale perché il cardinale, ovviamente, essendo il vertice della gerarchia dell'arcidiocesi, è quello che fa più, come giustamente dice Maria, anche più rumore mediaticamente. Concretamente poi il cardinale non è che lo faccia semplicemente per fare gli annunci. Certo, ci sono impegni di ecclesiastici più o meno poi immedesimati nella linea della gerarchia. Non sta a me fare la graduatoria di questo. Ringrazio Maria, non c'era nessuna polemica, figuriamoci. Poi anche all'interno della Chiesa c'è chi dibatte e caratterizza la propria linea sulla pastorale sociale in maniera, diciamo così, con qualche vigore polemico. Oggi cerchiamo semplicemente di investigare tutti i diversi aspetti di questi interventi ed è come mai, ripeto, poi non si riesca a focalizzare gli interventi pubblici, che pure ci sono stati ricordati anche oggi, per tentare di risolvere tutto questo. Abbiamo con noi, adesso la ringrazio di aver dedicato qualche minuto di telefono a noi, Alessandra Mussolini, onorevole Mussolini, che è presidente della Commissione Bicamerale per l'Infanzia, è napoletana, conosce molto bene quindi i problemi di quella realtà che le sta molto a cuore. Buongiorno e grazie, onorevole Mussolini. Buongiorno a voi. Allora, ha sentito il cardinale all'inizio. Insomma, nella sua esperienza di presidente della Commissione Bicamerale per l'Infanzia, quindi c'è una responsabilità, per così dire, parlamentare nazionale, di promuovere nella maggioranza di fronte al governo proposte nuove. Ma cominciamo da Napoli. Napoli è una realtà ancora che c'ha i bambini di strada, perché secondo lei? Ma io direi una cosa, io ho sentito gli interventi molto puntuali degli ascoltatori prima. E Napoli è vero che è una città molto variegata, ricordiamo che noi stiamo parlando di quartieri che non sono quartieri periferici, ma sono il cuore di Napoli. Ed effettivamente ci sono bambini, anche piccolissimi, che non vanno a scuola, quindi le istituzioni, quindi le amministrazioni locali non hanno poi una forza così importante per anche obbligare le famiglie di mandare a scuola i figli, perché quando vanno a scuola non stanno in mezzo alle strade, ed è vero quanto si diceva prima, poi non è che quelli più fortunati, si può dire, chiedono l'elemosina, gli altri vengono reclutati dalla criminalità organizzata per fare addirittura i corrieri della droga, quindi questa è una cosa estremamente grave. L'iniziativa del Cardinale è importante perché, anche se è vero che ci sono tantissime iniziative che magari non fanno clamore, però è anche vero che ha riportato l'attenzione su un problema che purtroppo ne dobbiamo prendere atto, magari lo Stato anche localmente si è molto interessato e ha spostato anche dei fondi per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, anche i minori, che sono un gravissimo problema, quindi non è che lo sottovaluto, però ci sono ormai tanti bambini italiani, tante famiglie italiane che sono allo stremo, soprattutto anche dopo questa crisi economica che continua a farsi sentire, che non è finita, e quindi cominciano non ad affacciarsi, ma noi vediamo anche quando il mercato rionale termina non ci sono più gli immigrati, ma ci sono persone anche anziane, sono italiane, che vanno a cercare tra i cassonetti per vedere di trovare addirittura qualcosa da mangiare, quindi è un grave problema. Ognuno di noi deve portare delle iniziative concrete, lo Stato, le stesse quindi istituzioni, ma anche a livello locale, cioè ognuno deve fare il suo, anche le amministrazioni locali, che purtroppo non lo fanno, soprattutto nei quartieri noti, perché il quartiere Sanità, ma ce ne sono tantissimi altri, Monte Garvario, Forcella, ci sono tantissimi quartieri che non sono stati ancora recuperati alla legalità e ne fanno le spese i bambini. Onorevole Mussolini, tanto rispetto alle polemiche di chi oramai un anno fa criticava la prima risposta che il governo mise in campo per le vittime della crisi e per coloro che erano più colpiti dal morso della crisi nei livelli bassi di reddito disponibile, cioè la social card, quanto rispetto poi alla responsabilità degli enti locali che a loro volta poi, un po' come il governo che diceva noi questo possiamo fare ed è già un impegno straordinario perché c'è un problema di finanza pubblica. Gli enti locali a maggior ragione poi dicono rispetto al governo nazionale, il governo nazionale vorrebbe lasciare a noi compiti che però vedono risorse tagliate, trasferimenti tagliati, l'ICI abolito e così via. Insomma, l'annoso problema dell'adeguatezza dei finanziamenti per le politiche sociali. Al di là di questo, facciamo stato che questa polemica c'è e che c'è questo limite. Nella sua esperienza di parlamentare che deve cercare di sollecitare la maggioranza, il governo, l'opposizione a delle risposte nuove, sulle politiche sociali e soprattutto su chi sta peggio, come si può immaginare di rifocalizzare con qualche strumento nuovo l'intervento pubblico, sia pur facendo appello poi, come è giusto e comprensibile, alla generosità degli individui, delle famiglie, di chi sta meglio nel rispondere al volontariato, alla chiesa, a quello laico, ma le politiche pubbliche cosa possono fare di più che non facciamo, dimenticando chi non è in condizioni di partecipare al mercato? Allora, prima di tutto, quando si stanziano dei fondi, quei fondi devono arrivare e allora trovare degli strumenti che siano in grado di poter far arrivare i soldi alle famiglie direttamente. La social card è stata un'iniziativa molto importante, forse un tantino a livello della burocrazia, dei sistemi per far arrivare i soldi poi direttamente alle famiglie è complicata, perché autocertificazioni, perché bisogna dimostrare, perché cioè devi dimostrare talmente tanto che poi i soldi non riesci a farteli arrivare. Io ho dovuto penare per riuscire ad inserire sempre nella social card qualcosa che poi la gente magari non sa, perché non riesce neanche a sapere come può sfruttare quando riesce ad avere i benefici della social card. Io ho fatto inserire la possibilità di avere latte gratuito per i bambini, pannolini gratuitamente. Questo è molto importante perché quando nasce un figlio ci sono dei costi che sono ineludibili. Allora, la social card è uno strumento che funziona, vediamo se riusciamo a semplificare le procedure, perché poi quando si dice i soldi noi li possiamo stanziare a livello centrale, cosa fanno le amministrazioni? I soldi che noi diamo e che stanziamo o le gestioni locali sono realmente vincolate a questioni sociali? No. Non sono vincolate, ci sono dei fondi regionali che poi vengono sviati su altre problematiche che magari non sono così importanti e non arrivano alla gente. Io ricordo che proprio a Napoli ci sono tantissimi istituti che sono istituti cattolici, altri sono laici, e che non hanno la possibilità di andare avanti e che accolgono invece tanti bambini che sono stati vittime di violenze e di disagio. E allora come si fa? Da una parte non vanno a scuola, dall'altra gli istituti meritori che li accolgono non hanno i fondi perché non li ricevono dal comune, non li ricevono dalla regione. Allora questo diventa un circolo vizioso, cioè i soldi si stanziano ma non vanno ai cittadini, cioè non vanno alla fine perché il comune, perché la regione, perché magari lo Stato fa una social card difficile da poter essere utilizzata direttamente. E allora interroghiamoci, ognuno deve semplificare e far arrivare realmente i fondi. Se non li fa arrivare, ne paga le responsabilità. E per questo io, nel ringraziare l'onorevole Mussolini, invito a riflettere chi sta in ascolto su perché a molti, agli indigenti, a molti, risulta più efficace poi l'intervento dal basso, del volontariato, quello ecclesiale e quello laico, proprio perché, come ha detto l'onorevole Mussolini, quello arriva in tempo reale e con conoscenza diretta rispetto alla complicazione dannata degli interventi pubblici amministrativi fatti su, come si chiama nel gergo anglosassone, sui mean test, cioè su criteri oggettivi tanto complessi di adeguatezza per avere titolo e per il riconoscimento del titolo ad avere il trattamento integrativo di sostegno sociale, che alla fine ci si perde per strada. E questo ha riguardato ancora molte migliaia, molte decine di migliaia di italiani anziani che, di fronte alla procedura che pure il governo si è sforzato di fare semplice, la social card, alla fine hanno sbattuto la testa e hanno detto non ce la faccio a ottenerla. Ora le informazioni sulla circolazione stradale, poi approfondiamo con un nuovo ospite, Giuseppe Roma, il direttore generale della Fondazione Censis. Eccoci per quest'ultima parte della trasmissione, stiamo analizzando in studio le risposte che vengono dal volontariato, da quello ecclesiastico e da quello laico ai problemi della povertà in Italia e su come e perché le politiche pubbliche su questo, per quanto abbiano sforzato di mettere a frutto nuovi strumenti, siano apparse un po' inadeguate. Alcuni ascoltatori mi mandano degli sms del tipo: ma come, scoprite che esiste la povertà, volete far arrabbiare il governo? No, guardate, no. Siamo lontani da queste polemiche sul fatto che parlare o meno del disagio significa fare polemica politica. Il disagio c'è in tutte le società avanzate, non c'è solo in Italia, ma in Italia ce n'è più che nelle altre, perché in Italia abbiamo poi, ed è questo su cui ci occuperemo in quest'ultima parte, un welfare che è focalizzato su altri problemi e non su questi. Cioè il nostro è un welfare focalizzato più sul problema dell'integrazione a chi ha dei diritti rispetto al problema invece del sostegno a chi non ha ancora diritti o li esercita troppo poco o ha risorse disponibili troppo basse per entrare nel circuito del mercato. Quindi qui ci sarebbe una riflessione profonda da compiere. Iniziamo ancora con alcuni ascoltatori, innanzitutto Silvia da Bergamo. Buongiorno, io sono promotrice insieme al Movimento dei Cristiani Riformisti di un'organizzazione finanziaria che intanto ancora non esiste e abbiamo interpellato vari organismi, fra primi la Chiesa, la Curia ha risposto con la Caritas, con uno stuolo di laici silenziosi che lavorano diciamo ignorati o comunque ignorati comunque in silenzio, e vi posso assicurare che ho scoperto un mondo di pensionati bancari che lavorano tempo pieno proprio per queste iniziative finanziarie, per concedere del denaro alle persone bisognose, come diceva prima lei, appunto anche immigrati. Silvia, è la mia stessa esperienza e la ringrazio di parlarne, perché anch'io conosco moltissimi italiani, chiamiamoli della terza età o pensionati, che su questo veramente danno il loro tempo e li trovo non commoventi, li trovo straordinari, perché poi danno anche solo con l'esempio di quello che fanno gratis a chi aiutano, l'esempio e il sostegno, il calore, cosa vuol dire la dignità umana condivisa. Prego, l'ho interrotta, mi scusi. Immagini, è veramente sorprendente. Io qualche mese che insomma mi sto muovendo in questo mondo e mi sono anche un po' vergognata. Io sono una professionista e quindi allora ho allargato un po' il discorso anche ai miei colleghi, ho detto: sentite, creiamo questo organismo e anche noi, diciamo, ci dividiamo il tempo una volta alla settimana, due volte, insomma, incompatibilmente con gli impegni professionali, a dare il nostro apporto gratis, insomma. Alcune hanno risposto, altri no, vabbè, comunque questo sta nella statistica. E adesso il problema più grosso lo stiamo incontrando perché abbiamo bisogno di un partner bancario e questa è veramente la nota più dolente. Immaginavo, sì. Le risposte, diciamo, del mondo bancario sono un po' diverse da quelle che vengono veicolate attraverso la pubblicità, o no? Purtroppo devo dire di sì, mi sono scontrata con una realtà, scontrata per carità, ho approfondito quantomeno un atteggiamento che poi nei fatti purtroppo non è quello che è. Poi stiamo parlando in fin dei conti di poche centinaia di migliaia di euro che per una banca possono essere addirittura paragonabili a un batash pubblicitario a livello nazionale, insomma, ecco, voglio dire, una cosa di questo genere. Poi capisco le banche nei loro bilanci, però mi sono rivolta a banche che hanno bilanci molto sani, quindi ecco, diciamo organizzazioni che almeno per la filosofia di lavoro e di veicolazione del proprio, tra virgolette, molte virgolette, missione, erano capabili, insomma, e invece purtroppo qui il muro è veramente... Grazie Silvia, e magari poi hanno anche fior di banchieri sedicenti cattolici che fanno convegni sulla Bibbia, io lo dico sempre con questo, con una polemica, non perché ce l'abbia con i banchieri cattolici, io ce l'ho con i banchieri incoerenti, non dicano di essere ciò che non sono nella loro pratica di gestione dei loro istituti, è tutto qui. Luigi dalla provincia di Milano, Luigi, prego. Sì, buongiorno. Ci dica. Io purtroppo per una mia disavventura ho avuto necessità di rivolgermi a tutti, no, praticamente. Luigi, mica se ne deve vergognare. No, ma intervengo perché praticamente voglio che alcune persone, magari che mi ascoltano, che si trovano o si sono trovati nella mia stessa situazione, capiscono, riescono praticamente, guardi, mi... Prego. Mi emoziono perché lo so, lo capisco, però non si deve emozionare, Luigi. La sua esperienza è utile, è utile ad altri che hanno dei problemi. Sì, quindi non si emozioni, ci dica. Appunto per i discorsi dell'anti-usura e compagnia varia, no? Sì. Praticamente allora, a quei tempi là, la Cariplovi ha detto che era l'unica banca, dato che dovevano riconquistare immagine, che dava una mano a queste persone. Mi sono presentato con tutta la documentazione regolare. Mi hanno fatto avere 7.000 euro che poi ho dovuto rimborsare ad un tasso quasi di usura, no? Addirittura avevano perché non ce la facevo a rimborsare compagnia varia, non mi hanno dato i soldi, ho portato là delle bollette da pagare e loro me le hanno pagate. E a quel punto lì mi sono rivolto agli enti locali, guardi che aveva tempo addietro, avevo fatto poi un articolo sul Cittadino di Monza, quindi di Monza, non ne sto raccontando. Sì. Delle storielle. No, si figuri. Allora mi sono rivolto praticamente all'ente locale, dopo che a Monza praticamente ci sono 6 dipartimenti, ci lavorano 200 persone, penso forse qualcuno in più, addirittura l'ufficio di carattere sociale lì all'interno del comune, sono lì che praticamente hanno 3 scrivanie. E nella sua esperienza le sono state d'aiuto? No? Guardi, cerco di essere sintetico, in definitiva mi hanno... Prima l'assistente sociale mi ha fatto 3.000 domande, ha scritto, mi ha detto va bene, tra 15 giorni adesso le faccio parlare con la psicologa, che poi non c'entrava un tubo di niente, mi ha rifatto le stesse domande, qualcuno in più, in modo da introdurre il coltello addirittura sulla mia più minima dignità, e alla fine, siccome mi hanno rifissato un altro appuntamento dopo 15 giorni, nel frattempo dovevo anche mangiare, comunque non gliene importava niente nessuno. A un certo punto la signorina mi ha detto, beh adesso guardi facciamo questo conteggio, vediamo se la possiamo aiutare, e mi era sfuggito che riuscivo a raccimolare 280 euro al mese, no? Facendo dei lavoretti in nero. A quel punto lì moltipliche, divisioni percentuali e compagnia varia, mi ha detto no, lei non ha diritto a niente. Ma guardi che io con quei 280 euro non riesco neanche a pagarmi l'affitto, mi dispiace, ma le percentuali e le procedure sono queste. Lo capisco, quindi l'esperienza di Luigi è: basta avere praticamente 4 euro per cui il pubblico ti dice no, tu non rientri in ciò che io posso sostenere e integrare. Giuseppe Roma, grazie per aver ascoltato innanzitutto questi minuti al telefono. Il direttore generale della Fondazione Censis, insieme a Diritta, uno degli osservatori da decenni dello sviluppo italiano, dell'inadeguatezza e delle ambizioni eccessive da una parte delle politiche pubbliche e poi dall'altra della straordinaria forza che dal basso la società italiana sprigiona sempre di fronte ai vari problemi. Ecco, Giuseppe Roma, intanto buongiorno e grazie. Buongiorno. Ma nei tanti rapporti che di anno in anno avete dedicato a questo aspetto del privato e del pubblico sociale, se dovesse dire in due minuti e mezzo, che cosa si può fare di più perché il pubblico non risponda come abbiamo visto a Milano, no, ai 280 euro non sono in condizione di aiutarti, da una parte, e dall'altro perché i privati possono fare ancor meglio quello che il Cardinale di Napoli ci ha chiesto di fare all'inizio. Ecco, questa fotografia dell'Italia dove il pubblico non risolve e il privato risolve, che fotografia è rispetto agli altri grandi paesi? È una delle tante fotografie dell'Italia che non si vede, perché in realtà questo problema, quello della povertà, da una parte viene sparato dicendo l'Italia c'è tanta povertà o ce n'è poca, ma insomma, come diciamolo pure, speculazione politica da una parte o dall'altra, poi nei fatti chi lavora sulla solidarietà, chi lavora vicino alle persone che hanno bisogno di un aiuto è gente che non ha immagine, quindi paradossalmente noi ci troviamo di fronte tanta solidarietà, tanta attività che viene fatta al nord, al sud, dove c'è una povertà intrinseca come nel sud o dove si stanno ricreando delle aree di povertà per la crisi, e questo non ha immagine, e quello che resta, diciamo, nell'esperienza di tutti è quello di aiutarsi, perché anche la dimensione pubblica, sia come risorse sia come strutture, funziona quando si affida delle associazioni, quando si affida volontariato, quando diciamo lavora non direttamente, perché sennò lo sportello pubblico è uno sportello burocratico che non fa dell'aiuto, della solidarietà una missione, ma fa un adempimento burocratico, e sappiamo che questo non funziona. Però noi ci dobbiamo chiedere anche perché nel nostro paese questo disagio è un disagio così ad arcipelago, perché nel sud ha una ragione molto strutturale. E pensiamo che le regioni del sud sono le regioni che in Europa hanno i redditi più bassi. Poi si potrebbe dire, vabbè, ma c'è il reddito in nero, c'è l'evasione. Però intanto è basso. Com'è? Però intanto è basso, certo. Però questo, ma anche se c'è un po' di integrazione del sommerso, il sommerso crea povertà, perché non è che il sommerso è una cosa straordinariamente, lavorare in nero sia così straordinariamente un dato di socializzazione, di avanzamento. Nel nord poi abbiamo avuto invece la contraddizione che c'è in tutte le società avanzate, cioè ci sono alcuni che non riescono a tenere un ritmo, oppure sono in settori produttivi che colpiti da questa grande competizione mondiale, insomma. Quindi oggi perché la Chiesa è così forte, perché il volontariato è così forte nel capire il problema? Proprio perché questo va risolto nel territorio, con gli strumenti del territorio. Cosa si può fare di più? Io credo che tutti noi e soprattutto tutte le grandi organizzazioni, avete parlato delle banche, delle fondazioni, che hanno come scopo quello proprio di aiutare il territorio, ma io direi ancora di più, perché anche chi ha non dà un po' di più, perché non, ma questo non è un fatto puramente caritatevole, perché cioè non si crea una cultura in questo paese che poi è la cultura del capitalismo avanzato. Diciamo, oh, questa è un'ottima conclusione di Giuseppe Roma. Il capitalismo avanzato è quello che sa vedere in coloro che oggi non hanno ancora non solo la carità e la solidarietà al dovere sostegno, ma sa vedere in questo, nel sostegno proprio a loro, il moltiplicatore per estendere poi produzione, consumi e redditi crediti domani. Younous ce l'ha insegnato nel dare credito a chi alle banche lo negano in paesi in via di sviluppo, e anche in Italia c'è la via per dare non solo sostegno caritatevole, come ci chiede la Chiesa, ma anche per estendere le basi economiche della società. E in questo le politiche del welfare italiano, ma ne parleremo in un'altra puntata, vanno rifocalizzate. Io ringrazio anche Giuseppe Roma per questo suo intervento alla fine, come ringrazio regia Filippo Aureggi e redazione Alessandro Marco Tulli. Vi do appuntamento a domani, la linea al giornale radio. Radio 24. La passione si sente.